Letture di Radio 24. Costato già 300.000 euro, l'SGA, il sistema gestione e accoglienza, il nuovo sistema informatico del Viminale che dovrebbe tracciare e distribuire i migranti sul territorio nazionale, è già in tilt, come scrive Fausto Biloslavo in un articolo pubblicato sul Giornale. Il sistema dovrebbe controllare le presenze effettive ed evitare le truffe sui numeri e i rispettivi esborsi per migrante, 35 euro, da parte dello Stato. Bella idea, scrive Biloslavo, ma il sistema non è ancora attivo proprio per l'emergenza sbarchi estiva, perfettamente prevista, che avrebbe dovuto affrontare. La triste realtà è emersa mercoledì scorso durante l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della Camera di Enza Maria Leone. Scrive Biloslavo, che poi prosegue. Il 15 marzo, la responsabile del sistema informatico di gestione dell'accoglienza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno aveva annunciato la partenza del sistema di tracciatura dei migranti entro l'estate, tra maggio e giugno di quest'anno. In questa maniera avremo un quadro preciso dei migranti in Italia, aveva dichiarato la Leone. Mercoledì ha ammesso di aver fatto una valutazione sbagliata indicando una data di partenza entro l'estate. In pratica, il controllo centralizzato dei migranti in Italia fin dal loro arrivo alla pianificazione dell'accoglienza a livello periferico rischiava di andare in tilt proprio a causa dell'emergenza sbarchi. Abbiamo bisogno di caricare e controllare la mole di dati da inserire che sono arrivati dalle prefetture. La verifica ha richiesto più tempo del previsto e impedito la partenza entro l'estate, ha spiegato l'esperta del Viminale. Davanti alle pressanti domande dei parlamentari, la Leone ha dichiarato: «Penso che si partirà entro l'anno». I costi, fino ad oggi, indicati dalla dirigente, sono attorno ai 300.000 euro, ma è saltato fuori che il sistema per ora sarà monco. All'inizio della procedura, ha spiegato la Leone, c'è la raccolta delle impronte digitali e viene assegnato a ogni migrante il CUI, codice identificativo unico, che inserito nel sistema SGA consente di tracciarlo e identificarlo con precisione. Il secondo passo è la ripartizione che avviene prima a livello regionale, poi sono le prefetture ad allocare i migranti nei centri di competenza. Vincenza Bruno Bossio del Partito Democratico e altri parlamentari hanno però scoperchiato i limiti del nuovo sistema informatico. SGA registra l'arrivo del migrante allo sbarco e le prefetture confermano l'iniziale presenza nei centri regionali, ma poi il controllo si perde. Bossio ha fatto notare che nel caso del CARA, il centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Crotone, travolto da un'inchiesta, i numeri dei migranti realmente presenti erano fittizi. La Leone ha ammesso che al momento il livello di controllo dentro i centri non è garantito dall'innovativo sistema informatico, anche se lo gestirà in futuro. Questo significa che non inciderà, per ora, sulle truffe dell'accoglienza. Il 15 marzo, quando era stato annunciato che il sistema sarebbe partito entro l'estate, il Viminale parlava di uno strumento ideato per gestire in maniera sia centralizzata che periferica il problema della pianificazione e dell'allocazione delle risorse. A una domanda specifica, durante l'audizione di ieri, se i contributi concessi per i migranti saranno informatizzati, la risposta della Leone non lascia dubbi. Questo è il sistema di controllo delle presenze. Al momento i fondi vengono erogati su segnalazione quotidiana delle prefetture e in questo momento non è prevista la gestione dei contributi. Questo era l'articolo di Fausto Biloslavo. Il sistema di emergenza in tilt per l'emergenza. Da Il Giornale del 29 giugno. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Letture di Radio 24. E se la strage di Bologna del 2 agosto 1980, la peggiore nella storia d'Italia con i suoi 85 morti, non fosse nera? Se lo chiede Maurizio Tortorella in un articolo pubblicato su Panorama. Valerio Giosva Fioravanti e Francesca Mambro, i due neofascisti che 22 anni fa vennero condannati all'ergastolo quali responsabili della strage, si sono sempre dichiarati innocenti. Molti dubbi sono irrisolti, scrive Tortorella, che poi prosegue. Il principale riguarda un retroscena sempre negato dai magistrati bolognesi, ma ogni giorno più esplorato e concreto. La possibilità che la strage sia nata come ritorsione del terrorismo palestinese per la violazione di un accordo segreto da parte dell'Italia. Di quell'accordo e delle sue oscene propaggini tratta un libro, I segreti di Bologna, scritto dall'ex giudice Rosario Priore e dall'avvocato Valerio Cutonilli. È Il Lodo Moro, patto di non belligeranza stretto nel 1973 fra il governo Rumor, il cui ministro degli esteri era Aldo Moro, e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Nessun attentato in Italia, in cambio della piena libertà di movimento armato per quei sanguinari terroristi islamici ante litteram. E sarebbe proprio l'arresto di tre militanti della sinistra eversiva a Ortona, in Abruzzo, fermati con un alto rappresentante dell'FPLP in Italia, Saleh Abu Anzè, significativamente residente a Bologna, la causa scatenante della strage. I quattro finiscono in manette nel dicembre 1979 perché trasportano missili terra-aria made in URSS. In Italia un'era politica è appena finita. Ai governi DC-PCI, filo-palestinesi, è succeduto il primo esecutivo di Francesco Cossiga, filo-americano. Il lodo scricchiola. A Chieti, nel gennaio 1980, i quattro vengono processati e condannati a 7 anni. Il 2 luglio inizia il processo d'appello. Gli imputati si aspettano di uscire subito di cella, ma l'udienza viene rinviata a ottobre. Un mese dopo arriva la bomba in stazione. In un appendice del processo nel 2014, la Procura di Bologna ha negato l'esistenza del lodo. Oggi, invece, anche il generale Mario Mori, dal 2001 al 2008 capo del SISDE, scrive nel suo libro Oltre il terrorismo di essere certo che l'accordo sia esistito. «Io mi stupisco che lo si possa ancora mettere in dubbio», dice a Panorama Guido Salvini, giudice istruttore di tanti processi sulle versione nera, a partire da Piazza Fontana. Il Senato, all'unanimità, il 6 aprile 2017, ha chiesto al governo di abolire il segreto di Stato dalle carte relative al rapimento Moro. Lì dentro, del lodo segreto si parla, e come? Ma qualcuno risponderà? Avete ascoltato l'articolo di Maurizio Tortorella, Strage di Bologna. La bomba fu palestinese? Da Panorama di giovedì 22 giugno. Il lunedì successivo, 26 giugno, Bassam Abu Sharif, già consigliere di Yasser Arafat e portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, rilascia una deposizione di 4 ore alla commissione bicamerale d'inchiesta sulla morte di Aldo Moro. Forse i membri della commissione, presieduta da Giuseppe Fioroni, si aspettavano di più dall'audizione, commenta Stefano Vespa in un articolo pubblicato sul sito Formiche, che poi continua. Si cercava di avere conferme dirette su quegli anni, sui rapporti tra gruppi palestinesi e terroristi europei e su quanto avvenne prima, durante e dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Abu Sharif, 71 anni, ha insistito su 2 punti essenziali. Le Brigate Rosse erano infiltrate dagli Stati Uniti che volevano Moro morto e se fosse stato chiesto aiuto ai palestinesi per salvare il presidente della DC, l'avrebbero certamente dato per gli eccellenti rapporti con lo stesso. Ma si profila una seconda puntata perché l'esponente palestinese si è impegnato a fornire alla commissione 2 elementi di enorme importanza. Il testo del cosiddetto Lodo Moro, cioè il documento firmato da George Habash con il quale si garantiva che l'Italia sarebbe stata al riparo da attentati, e i nomi dei brigatisti che sarebbero stati in realtà infiltrati americani, fatto che per i palestinesi è assolutamente certo. La lunghezza delle risposte, spesso argomentate con riferimenti non attenenti al caso, si sa che i medio orientali non amano la sintesi, alla terza ora di audizione ha costretto un esausto Fioroni a imporre risposte secche, sì o no, a 2 quesiti. Così Abu Sharif ha detto che non è stato mai chiesto l'intervento palestinese per salvare il leader DC. e che avrebbero certamente avvertito l'intelligence italiana se avessero avuto notizia di attentati in preparazione in Italia. Abu Sharif ha insistito anche sulle modalità del sequestro e dell'uccisione della scorta quel 16 marzo 1978. Veri protagonisti, ha detto, della CIA, di Gladio, di Intelligence o un team di forze speciali. Quelli che hanno sparato, ha poi aggiunto, non sono stati gli stessi che l'hanno tenuto prigioniero. Alcuni passaggi lasciano dei dubbi. Fioroni ha ricordato l'ormai famoso messaggio del colonnello Stefano Giovannone, capo del centro del sismi a Beirut e amico di Moro, che il 17 febbraio 78, un mese prima del sequestro, inviò a Roma notizie su un'operazione terroristica in preparazione. Giovannone non aveva contatti diretti con Abu Sharif, che pure conosceva perfettamente, bensì con un altro palestinese oggi morto. È chiaro però che le fonti del colonnello facevano parte di quell'ambiente e quindi non si capisce come Abu Sharif possa negare che i palestinesi abbiano mai avuto notizie di possibili attentati. Altrettanto curioso che Abu Sharif non abbia mai sentito nominare l'organizzazione terroristica Giugno Nero, di Abu Nidal, della quale si parla da decenni, e dei legami che avrebbe avuto con le BR, come risulta da un documento dell'allora vice direttore del SISDE risalente all'11 agosto 78. Ovvia la domanda di Fioroni. Come mai, prima del sequestro Moro, le BR erano inaffidabili e dopo non lo sono state più? La risposta è stata un classico depistaggio. Anche oggi, nei territori occupati, ci sono palestinesi che sono in realtà agenti israeliani. La promessa di informarsi presso la propria intelligence su chi fossero i brigatisti infiltrati dagli Stati Uniti è stata fatta in risposta all'insistenza di Gero Grassi, mentre dopo un'analoga domanda di Marco Carra se l'era cavata col fatto che è un comandante e non un agente dei servizi segreti. Invece Abu Sharif ha negato più volte l'esistenza di campi di addestramento nei quali si sarebbero esercitati brigatisti. Se manterrà gli impegni, le notizie che fornirà alla commissione saranno piccanti, sperando che non vengano segretate. Questo era l'articolo di Stefano Vespa, Caso Aldo Moro, cosa non ha detto Abu Sharif, pubblicato il 27 giugno sul sito formiche.net. Due giorni dopo, su Il Secolo d'Italia, Abu Sharif rilascia un'intervista esclusiva a Franco Bucarelli. Un giorno, nel mio ufficio del Fronte Popolare Palestinese, si presentò una giornalista italiana, Rita Porena, che mi disse di lavorare per Il Manifesto, dice Sharif. Venne accompagnata da un signore distinto, alto, che si presentò subito come capo dei servizi segreti italiani in Medio Oriente. «Sono il colonnello Stefano Giovannone», disse in inglese, «e desidero incontrare subito George Abbas, il vostro leader, da parte di Aldo Moro». Chiesi conferma al mio amico giornalista Franco Bucarelli sulla vera identità del personaggio, che si era così presentato. Avuta conferma, organizzai subito un incontro con George Abbas e io ero presente, quando Giovannone chiese cosa voleva il Fronte Popolare per non dirottare aerei dell'Alitalia o compiere azioni terroristiche sul territorio italiano. In cambio, il governo italiano offriva ospitalità ai rappresentanti delle organizzazioni palestinesi e una specie di riconoscimento molto discreto di tali formazioni. In questa intervista esclusiva per il Giornale d'Italia, Bassam Abu Sharif, ex numero 2 del Fronte Popolare Palestinese, e poi portavoce di Arafat quando passò nelle file dell'OLP, così sintetizza quello che esageratamente è ancora chiamato Lodo Moro. Fu un accordo verbale tra due persone autorevoli, riassunto in una lettera in cui George Abbas prendeva l'impegno di rispettare quel patto. Consegnata a Giovannone, la lettera fu portata a Moro, il quale mandò un regalo personale ad Abbas, molto gradito. «Bassam, io so come andò quel patto», chiede Bucarelli. Il Fronte Popolare chiese anche il rilascio di due palestinesi detenuti in Italia e molte migliaia di dollari, equivalenti a poco più di 2 miliardi di lire. Ma il Fronte Popolare ne ricevette soltanto uno e per poco non saltò il patto d'onore tra voi e il governo italiano. Fu data la colpa del mancato pagamento a una banca cipriota con sede a Beirut e non si è mai saputo chi intascò l'altro miliardo. «Di questa questione non so nulla», risponde Sharif. perché se ne occuparono i dirigenti finanziari del Fronte Popolare. Posso soltanto dire che, siccome la liberazione dei compagni palestinesi tardava con futili pretesti, feci pressione sul colonnello Giovannone affinché venisse rispettato quel patto firmato da George Abbas. Alla Commissione parlamentare italiana per il caso Moro, lei ha raccontato che in quegli anni c'erano molti italiani nei campi di addestramento della guerriglia palestinese. Chi e quanti erano? Domanda Bucarelli. Una sessantina, a turni di 10, risponde Sharif. Neofascisti e comunisti fanatici, che iniziarono a venire dal tempo dell'editore Feltrinelli, il quale sovvenzionava quei gruppi. Ma non c'era nessuno importante, e tantomeno brigatisti rossi. Noi non abbiamo voluto nessun rapporto con le BR, perché Abbas era convinto che fossero stati infiltrati da servizi israeliani. Anzi, avemmo l'informazione dagli amici tedeschi del fronte che in Italia si stava preparando un grosso evento terroristico e io avvisai Giovannone, il quale informò subito il suo governo. Questo accadeva qualche settimana prima del rapimento Moro. Poi asserisco categoricamente che in quella tragica circostanza nessuno dall'Italia ci chiese aiuto, perché sapevano bene che, mentre con gli altri gruppi di resistenza, specie tedeschi, avevamo ottimi rapporti, invece non abbiamo mai voluto averne con le Brigate Rosse. Molta gente in Italia ha volutamente mischiato le carte della verità, perché era chiaro a tutti che Moro, per la sua politica nazionale e internazionale, dava molto fastidio agli Stati Uniti e a Israele. Con la politica petrolifera, iniziata da Mattei e proseguita con la politica di Moro verso i paesi arabi, le famose sette sorelle, regine del petrolio, erano in piena crisi. Quindi lo statista italiano doveva morire, chiede Bucarelli. Di questo ho parlato a lungo anche con Andreotti, Craxi, De Michelis, D'Alema e altri importanti politici italiani. Tutti erano concordi nel ritenere che il rapimento di Moro fu un'azione militare perfetta, di cui non potevano essere capaci i soli brigatisti rossi. C'era una regia esperta e occulta, che non è mai comparsa, perché i cosiddetti autori del clamoroso gesto volevano pubblicità personale nelle file del terrorismo rosso italiano e quindi si sono fatti tranquillamente anni di galera senza mai rivelare chi c'era alle loro spalle. Cosa hai risposto alle domande della Commissione Moro? Chiede Bucarelli. La verità, risponde Sharif. Forse si aspettavano una diversa verità, ma io sono stato un protagonista e un testimone di quegli eventi. Ho promesso alla Commissione di portare quella lettera di Abbas, che chiamano Lodo Moro. In realtà è poco meno di una paginetta e noi abbiamo rispettato quel patto d'onore. Tutti i fatti di sangue accaduti in Italia, ad opera di sedicenti guerriglieri palestinesi, in realtà erano agenti provocatori pagati da Gheddafi e da organizzazioni europee che vantavano il loro appoggio alla causa palestinese, ma erano invece infiltrate da servizi occidentali. Questi erano alcuni passaggi dell'intervista ad Abu Sharif contenuti nell'articolo di Franco Bucarelli «Ecco tutta la verità sul Lodo Moro», dal Secolo d'Italia del 29 giugno.